luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono a Treviso e sono alla Casa dei Carraresi, dove è esposta una mostra davvero interessante, dedicata a un artista, diciamo così, internazionale, El Greco. È stato uno dei grandi pittori della maniera, del tardo Cinquecento in Europa, ed è stato naturalmente un artista con tre patrie, perché il suo nome originale era Domenikos Theutokopoulos, quindi era greco sul serio. Era nato nel 1541 nell'isola di Creta, che allora però si chiamava Candia ed era un'isola di proprietà della Serenissima, quindi dal punto di vista delle anagrafe El Greco era italiano, sostanzialmente era veneziano. In quest'isola, pensate, questo artista comincia a dipingere le icone, quella della tradizione ortodossa. Questa cosa si è scoperta pochi anni fa, eppure noi oggi lo percepiamo come uno dei grandi pittori della maniera europea. Ecco, come ha fatto a diventare il greco che conosciamo noi? Ecco, attraverso un viaggio in Italia, e questo è il tema che mette a fuoco la mostra, El Greco durante il soggiorno italiano. El Greco viene naturalmente da Candia alla madrepatria, viene a Venezia, qui vede le opere di Tintoretto, di Veronese, di Tiziano, e muta completamente lo stile, da pittore di icone diventa un pittore tizianesco, tintorettesco, e quindi comincia ad essere osservato come un pittore molto all'avanguardia. Ma la sua fortuna è che viene intercettato dai Farnese, dalla potente famiglia romana, che lo porta a Roma. E a Roma lui ha la possibilità di cominciare una carriera straordinaria, comincia a fare questi dipinti in stile italiano. Peccato che fa un grosso errore, parla male di Michelangelo. Michelangelo era appena morto e secondo lui non era un pittore che valeva moltissimo. Purtroppo questa critica gli costò l'ostracismo dal gruppo che lo stava proteggendo fino adesso, e questo costò per lui l'esilio. Dove andare? Il greco decise di andare in Spagna, di andare a Madrid, e sperava di diventare il pittore di Filippo II di Spagna, che gli commissiona qualche quadro, ma non, a Filippo i quadri di El Greco non piacciono, e allora lui si stabilirà a Toledo e diventerà il grandissimo El Greco, cioè il pittore spagnolo che però veniva dalla Grecia.